I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Diciamo la verità, il mondo si sta capovolgendo. Ci sono almeno due fatti che la cronaca ci offre a dimostrare questa tesi. L'avreste mai immaginato solo qualche mese fa che il presidente degli Stati Uniti avrebbe dichiarato che la disgregazione dell'Europa è una buona cosa? No, non lo avreste immaginato, naturalmente. Eppure Donald Trump ha detto questo nella sua prima raffica di interviste una settimana dall'insediamento. Frasi che hanno provocato naturalmente una durissima reazione di Angela Merkel. E avreste immaginato che sarebbe stata la Cina di Xi Jinping a difendere la globalizzazione, a parlare di apertura dei mercati? È il senso del messaggio che il leader cinese ha affidato alla sua prima partecipazione al forum di Davos, il tempio della riflessione globale e del capitalismo. Speriamo che siano solo parole, altrimenti è chiaro che il nuovo ordine mondiale fondato sulla Cina come paladino sarebbe quello di un'economia di mercato che ancora non è tale, nonostante faccia parte del WTO, e sarebbe quello di regole sul lavoro inaccettabili in Occidente, nonché quelle di un paese che sui diritti della proprietà intellettuale ha davvero molto da farsi rimproverare. Eppure c'è una nota che sparge ottimismo in questo mondo alla rovescia, sono le previsioni del Fondo Monetario, che stima un'economia mondiale in crescita del 3-4% quest'anno e del 3-6% nel prossimo anno, e corregge al rialzo la performance proprio degli Stati Uniti, che dovrebbero aumentare il loro PIL del 2-3% nel 2017 e del 2-5% nel 2018. Unica nota stonata, e davvero unica, l'Italia. È il solo paese per cui il fondo ha rivisto in peggio le stime di crescita, fissandole rispettivamente allo 0,7% e allo 0,8%. Non possiamo non riflettere su questo dato inquietante. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. A 7 mesi dal referendum che ha sancito la Brexit, comincia finalmente a prendere corpo il percorso che porterà al divorzio la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Sarà una separazione netta, completa, proprio quella hard Brexit di cui a lungo si è parlato e che è stata oggi illustrata dal primo ministro Theresa May, che ha anche indicato i 12 obiettivi del suo paese, a partire da quello di mettere fine alla libera circolazione delle persone. Ecco, che cosa significa hard Brexit? Beh, significa che la Gran Bretagna è intenzionata a uscire dall'Unione Europea, ma anche dal mercato unico europeo, cioè da quell'insieme di regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Alcuni paesi che non sono nell'Unione Europea aderiscono però al mercato unico, lo fanno per esempio la Norvegia, in parte la Svizzera. Bene, Londra pensa invece a un nuovo trattato per riformulare completamente tutti i rapporti con i paesi dell'Unione Europea. La May ha insistito sulla volontà e sulla disponibilità a proteggere i diritti dei lavoratori europei, ma ovviamente ancora nessuno conosce le modalità, e sappiamo quanto questa preoccupazione sia elevata, ad esempio, tra gli italiani che lavorano a Londra. Sarà un percorso lungo. L'Europa naturalmente non starà a guardare, non lascerà a Londra la regia di questo complicato divorzio. È presto per dire che cosa accadrà concretamente, ma è evidente che rischi di protezionismo e di guerre commerciali sembrano davvero dietro l'angolo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.